Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Un boato da stadio, la colonna sonora tradizionale della domenica, introduce il libro di cui adesso vi voglio parlare, che è di Michele Uva, che è un dirigente sportivo, e Marco Vitale, che è un economista e consulente d'impresa. Hanno scritto insieme il libro Viaggio nello sport italiano, pubblicato da Edizioni Studio Domenicano, 466 pagine, 29 euro. Questo è un vero e proprio viaggio in tutti gli aspetti dello sport, da quello sociale a quello storico a quello economico. I due autori manifestano nel libro una profonda fiducia nella funzione dello sport, che è molto importante nelle vite dei due autori, e non soltanto per ragioni professionali. E allora nel libro si parte dallo sport nell'antica Grecia, si arriva a oggi, si arriva all'Italia di oggi, esaminando le varie discipline particolari delle organizzazioni sportive, a partire naturalmente dal CONI, il medagliere delle varie discipline, i punti forza e quelli di debolezza dei singoli sport. Insomma, una vera e propria radiografia dello sport italiano, ma condotta con molta passione. Non è per nulla una semplice elencazione di dati statistici. Si parte nel libro dall'assunto dell'importanza che lo sport ha non soltanto come occasione di socializzazione, ma soprattutto di trasmissione di passione, di sentimenti e di valori. E proprio su questo intervistiamo uno degli autori. Buongiorno a Marco Vitale. Buongiorno. Nel libro che ha scritto assieme a Michele Uva, voi insistete spesso sul tema dello sport come agenzia educativa. D'altra parte sottolineate anche, cito per esempio dal vostro libro, che c'è stata negli ultimi anni una profonda distorsione di valori che ha diffuso un modello di sport profondamente diseducativo. Ecco, questo conflitto fra quello che dovrebbe essere lo sport e quello che è diventato si può superare, si può migliorare? Sì, io credo seriamente di sì, intanto perché le radici della parte educativa, della componente dello sport in un modello educativo sono radici molto molto antiche, non a caso noi incominciamo dal modello greco, e quindi c'è una profondità di storia, di pensiero su questo modello. La distorsione è altrettanto forte, soprattutto nei tempi più recenti, soprattutto negli sport dove corre molto molto denaro. Però la forza dello sport, io credo, è proprio quella di esprimere delle esigenze, dei valori che hanno loro stessi la capacità di controllare, di dominare le disfunzioni. Non da soli, ovviamente, hanno bisogno dell'uomo, hanno bisogno del pensiero, hanno bisogno dell'organizzazione, hanno bisogno della convinzione di chi ha posti di responsabilità, e nello sport ce ne sono tanti che questo senso condividono, questo senso di responsabilità hanno. Quindi intanto ci sono sport tipo la scherma, ci sono sport tipo la ginnastica, ci sono sport dove questo aspetto educativo e di formazione è dominante, altri sport dove c'è stato un grande arretramento, ma dove sono in atto delle reazioni correttive su cui noi siamo fiduciosi, e più che essere fiduciosi pensiamo che valga la pena di impegnarsi. Ecco, voi indicate tre punti deboli dello sport italiano: l'elevato abbandono della pratica sportiva in età puberale, l'alto tasso di obesità tra gli adolescenti e l'anzianità degli impianti sportivi. Allora, quali sarebbero le priorità per la politica dello sport nel nostro paese? Sì, noi prima di tutto sottolineiamo la grande debolezza della presenza dello sport nella scuola, e invece siccome la scuola è la base dove la maggior parte dei giovani passano la maggior parte della loro giovinezza, è lì che bisogna impegnarsi e attaccarsi. D'altra parte la nostra scuola trascura la musica, trascura altre cose molto importanti, ma è nella scuola e dalla scuola che bisogna reinserire come modello educativo queste attività altamente formative, dallo sport alla scuola. Il secondo punto è quello degli impianti. Bisognerebbe trovare le vie, anche con l'impegno privato, di investire come è stato investito in passato. Noi stiamo vivendo una fase storica nel nostro paese in cui non investiamo più in niente, non investiamo più nel futuro. Proprio ieri mi telefonava un giornalista e mi ha fatto questa domanda: possiamo permetterci il lusso di lavorare per le Olimpiadi a cui Roma aspira per il 2020? E lui si aspettava una risposta evidentemente bilancistica negativa, e io invece ho risposto: non possiamo permetterci il lusso di non pensare a queste cose, perché se non proiettiamo il cuore oltre l'ostacolo, la volontà, la speranza, allora ci stiamo rinsecchendo. Io ero giovane quando ci sono stati le Olimpiadi a Roma nel 1960, bellissime tra l'altro, umanissime e fantastiche, e io ricordo che carica hanno dato ai giovani allora, come ero io, come hanno dato alla città, come hanno dato al paese questo evento. Allora dobbiamo fare i conti su un paese che deve riprendere una volontà di investire, e investire nei settori dove c'è la vitalità, dove c'è la gioventù, dove c'è la speranza. Tra questi sicuramente lo sport. A proposito di strutture, nel libro viene indicato come uno dei punti di maggiore debolezza il tema decisivo, cruciale, anzi scrivete voi, del calcio, per venire a un settore appunto, sì, dove i soldi corrono, quello degli stadi. Ecco, perché gli stadi sono un punto così cruciale per il calcio italiano? E questa è una domanda molto buona. Io credo che molti danno risposte perché ci sono troppi vincoli, troppo lacciuoli, troppo regolamenti. Io credo che quello che ha fatto la Juventus, che ha dimostrato che si può invece fare uno sport nuovissimo nell'ambito di questi vincoli, regolamenti, eccetera, è invece possibile quando c'è una volontà, una capacità di progettazione, una capacità di trovare le fonti finanziarie dove è possibile reperirle, e quindi è una altra manifestazione del mismanagement che ha dominato il calcio negli ultimi 20 anni. Il calcio italiano è stato oggetto di mismanagement negli ultimi 20 anni in modo terrificante, per un settore che è anche economicamente così rilevante. Però sono affiorati dirigenze assolutamente non all'altezza, inserito in strutture societarie che non sono adeguate per un fenomeno così complesso, e quindi abbiamo visto squadre anche grandissime gestite con l'approccio del padre padrone, faccio tutto io, e invece una squadra di calcio è un'impresa importante che deve darsi governance, competenze, professionalità, come in tutte le altre attività. E tra i casi di cattiva gestione, voi sottolineate il fatto che le squadre spesso sono incapaci di gestire le nuove forme di comunicazione, i new media. Sì, anche questo fa parte di quel mismanagement di cui parlavo poc'anzi. Senta, nel panorama, diciamo, della politica sportiva italiana, voi sottolineate un aspetto positivo, cioè un modello positivo in Italia di collaborazione tra pubblico e privato. Ecco, questo modello funziona ancora? Sì, funziona, perché è sostanzialmente così. C'è una struttura pubblica che fa capo al CONI, che è molto forte, nella ramificazione sul territorio, le società minori come peso economico, ma sono le società da cui vengono fuori i giovani calciatori, i giovani ciclisti, sono animatissime da migliaia e migliaia di appassionati che si dedicano a questo compito. C'è un settore dove questo non si verifica, è quello dell'atletica, e qui, secondo la nostra lettura, c'è stato un mismanagement dell'atletica italiana da parte della Federazione dell'Atletica. Bene, grazie a Marco Vitale, autore con Michele Uva di Viaggio nello sport italiano. Buona domenica! Un libro che interesserà in particolare gli appassionati di calcio è quello di Nicola Ludwig, che è un ricercatore scientifico, e di Gianbruno Guerrerio, giornalista scientifico. Si intitola La scienza nel pallone, i segreti del calcio svelati con la fisica. È pubblicato da Zanichelli, 176 pagine, 10,50 €. Questo è un libro divertente e appassionante sulle origini del calcio, ma soprattutto sulle leggi fisiche che presiedono, per esempio, a un gol o alle regole comunque del football. Per esempio, una precisa formula matematica, qui spiegata anche ai profani, illustra perché si giochi proprio in 22 sul campo da calcio. Oppure i due autori spiegano quali possano essere le strategie del portiere che deve parare un calcio di rigore in base appunto alle leggi della fisica, oppure che cosa succede quando si colpisce di testa. Insomma, un modo insolito per accostarsi al calcio e per comprendere, anche i profani come il sottoscritto, le regole del calcio e quindi magari meglio rispettarle. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto l'ultimo libro di Giorgio Bocca, il grande giornalista scomparso qualche settimana fa. Si intitola Grazie No, sette idee che non dobbiamo più accettare. È pubblicato da Feltrinelli, 10 euro, 112 pagine. Le sette idee che facevano arrabbiare Giorgio Bocca pochi giorni prima della sua scomparsa sono le idee della crescita folle, come la definisce Bocca, della produttività, della lingua impura, del dominio della finanza, della corruzione generale, della fine del giornalismo e infine un'invettiva sulla politica, l'Italia senza speranza. Nel libro naturalmente ritroviamo la grande passione e lo stile inconfondibile di Giorgio Bocca, che qui salutiamo. Poi vi segnalo l'ultimo libro di Andrea Camilleri, Il diavolo certamente, pubblicato da Mondadori, 172 pagine, 10 euro. Questi sono 33 racconti di 3 pagine ciascuno nella versione dattiloscritta. E in ognuno di questi racconti il diavolo ci mette lo zampino, capirete presto perché. E infine di Luca Miniero, che è il regista di Benvenuti al Sud e di Benvenuti al Nord, vi segnalo Napoli-Milano da casello a casello, un viaggio nell'Italia attraverso una serie di macchiette e di luoghi che ci fanno scoprire il nostro paese sotto aspetti meno tradizionali. Il libro è pubblicato da Rizzoli, 168 pagine, 14 euro. Un libro tira l'altro. Vi propongo adesso un libro di narrativa italiana piuttosto originale e insolito, quello di Giampaolo Correale, che è uno sceneggiatore televisivo e manager nel campo dei beni culturali, che ha pubblicato con Ibis Che mora la morte, 172 pagine, 16 euro. Il titolo è tratto da un testo medievale e allude all'elemento più originale e significativo di questo romanzo, il cui espediente letterario è quello di raccontare la vita del protagonista, un carrasco non particolarmente avvincente, ma quasi anzi banale nella sua esemplarità di un cinquantenne borghese romano, raccontare questa vita, dicevo, inframmezzandola con una serie di lapidi, di epigrafi che interrompono la narrazione e approfondiscono alcuni aspetti toccati dallo scrittore con ironia o autentica dissacrazione. Le lapidi sono certamente la parte migliore del libro, oltre che la più originale, e costituiscono certamente una specie di Spoon River anonima in cui gli epitaffi diventano una sorta di commedia umana che fa giustizia di tic, conformismi e banalità, come confermano per esempio questi tre esempi di estremi saluti che vi propongo. Qui giace. Volentieri avrebbe sofferto di atroci malattie o inestinguibili nevrosi, pur di essere accudito e compianto. Non ne ebbe. Si accudì e compianse da solo. Visse all'inseguimento di amori, sapendo che li avrebbe dimenticati qua e là, giorno per giorno, come gli ombrelli di cui acquistava ogni autunno interi stock. Morì in un giorno di sole. Qui giace, ucciso dalla fatica di contare le frasi che sentiva più spesso. Voleva premiare quella più ascoltata, ma la vittoria sarebbe andata a «Ma che ti frega, nipote degenere dell'ipertrofia del «me ne frego» fascista e figlia malandrina dell'ammiccante consociativa complicità del «che ci frega» di era democristiana». Morì senza sapere che cosa gli fregasse davvero. Non condivideva nulla degli interessi di nessuno, clandestino interprete di commedie non amate. Come una sarta teatrale cucì costumi che sarebbero finiti in un deposito dopo essere stati indossati da altri. E adesso vi presento un genere letterario relativamente poco battuto ma spesso affascinante, che è quello dell'epistolario. Innanzitutto vi presento un epistolario di Giorgio Lapira, che come ricorderete fu il leggendario sindaco di Firenze tra il 1951 e il 58 e poi tra il 1961 e il 65, esponente della sinistra cattolica e adesso proiettato addirittura verso la beatificazione. Le sue lettere a Paola Ramusani, scritte in un arco di tempo di 35 anni, sono presentate nel libro del sacerdote Diego Maria Pancaldo, intitolato Preghiera e Vita. È pubblicato da Edizioni Polistampa, 532 pagine, 24,80 euro. Sono lettere inedite, queste scritte dal futuro, all'inizio sindaco, e sono indirizzate a una sorta di figlia spirituale. Le lettere naturalmente permettono di conoscere da vicino e a fondo la profonda spiritualità di Lapira. Infatti, come scrive nella premessa il cardinale Silvano Piovanelli, la vicinanza nella preghiera e nell'amicizia illuminata dalla fede costituisce per Lapira un elemento fondamentale per affrontare le difficili situazioni della vita pubblica e le sue personali responsabilità di politico e sindaco della città. E qui il cardinale cita proprio la pira, che scriveva: «Come potrei resistere a tutte le onde della vita pubblica senza questa delicata intimità di orazione e di amicizia cristiana?» L'altro epistolario è per un lungo tratto contemporaneo a questo e ha un punto in comune, perché è indirizzato anch'esso a delle persone di Firenze. Le scriveva queste lettere Cristina Campo, l'epistolario pubblicato da Adelphi si intitola «Il mio pensiero non vi lascio», lettere a Gianfranco Draghi e ad altri amici del periodo fiorentino, 274 pagine, 24 euro. Cristina Campo, il cui vero nome era Vittoria Guerrini, visse tra il 1923 e il 77 ed è stata certamente una delle intellettuali più fini e appartate del dopoguerra, una grande poetessa di straordinaria spiritualità, che la portò per esempio sul finire della sua vita a deplorare le trasformazioni liturgiche seguite al Concilio Vaticano II, che secondo lei avrebbero contribuito a uccidere la spiritualità nel mondo. La Campo era bolognese di origine, fiorentina d'adozione, e poi nel 1956 si dovette trasferire a Roma. Lo fa malvolentieri, a Firenze, che sente come la sua patria, lascia il cuore e continua a colloquiare con i suoi amici. Fra questi amici ci sono grandi intellettuali, tra cui appunto Gianfranco Draghi e anche Mario Luzzi. E di altre due donne voglio parlarvi adesso. La prima è una figura dell'Ottocento, una delle più importanti dell'Ottocento italiano e non soltanto, e cioè la principessa Cristina di Belgioioso, milanese, nata nel 1808 da una famiglia nobile e ricchissima, che fece la pendolare, per un certo periodo fu anche esiliata a Parigi, fece la pendolare tra Parigi e Milano, e animò un famosissimo salotto sia a Milano che a Parigi e fu protagonista dei moti risorgimentali. Dopo il 48 poi si trasferì a Costantinopoli, da lì compì un lungo viaggio in Asia Minore, venne ferita poi in un attentato e tornò a Milano, ammorbidendo anche le precedenti posizioni politiche, che erano state piuttosto radicali, fino a morire nel 1871. Insomma, una vera e propria protagonista dell'Ottocento, un'intellettuale inquieta, giramondo, che fu in contatto con i circoli più avanzati dell'epoca, di cui Feltrinelli ci ripropone una serie di scritti sotto il titolo «Il 1848 a Milano e a Venezia». Il libro è curato e tradotto da Sandro Bortone, 188 pagine, 8 euro. Sono degli scritti della fine del 1848, presentati su giornali francesi, nei quali la Belgioioso in particolare difende la natura popolare dei moti del 48. E quindi parla molto delle esperienze dei volontari e dà dei giudizi anche molto severi, per esempio sulla classe dirigente milanese che non seppe imprimere una direzione politica precisa alle 5 giornate, finendo così per farle fallire. Sentite queste righe tratte dal libro. Il governo provvisorio mise ogni cura nel bloccare lo slancio popolare e chiudere la crisi rivoluzionaria, e il modo in cui si era formato aiuta a comprendere i suoi motivi. Per il resto, quel governo bipartito di repubblicani e monarchici esaurì la sua storia in una sequenza di compromessi tra i suoi componenti, che non erano né uniti da un disegno comune né sostenuti da un medesimo principio. Per rendersi vicendevolmente la vita più dolce, i governanti milanesi partorirono quel famoso sistema di imparzialità, grazie al quale la Lombardia si vide soggetta a un potere che non aveva né tendenze monarchiche né tendenze repubblicane. A chi giudicava che un governo non potesse sussistere se non a condizione di essere o monarchico o repubblicano, essi rispondevano che erano al potere soltanto a titolo provvisorio, che il popolo non aveva ancora espresso la sua volontà e che loro stessi volevano restare neutrali per non far pesare sui cittadini il proprio influsso e per non anticipare le future decisioni. Questa neutralità altro non era che il caos. E il libro si conclude con un breve scritto che è un classico della cultura femminista, cioè il saggio della presente condizione delle donne e del loro avvenire, pubblicato a Firenze nel 1866. E a questo punto... Il confettino. Chiudiamo con un'autrice, naturalmente, è Susanna Tamaro, un nome famoso anche tra i lettori adulti, che ha pubblicato con Giunti Junior il primo volume dedicato ai ragazzi, Cuore di Ciccia, 188 pagine, 12 euro, illustrato da Adriano Gon. Questo è appunto il primo romanzo per l'infanzia scritto dalla Tamaro, sul rapporto meno patologico di quanto immagini la mamma del protagonista tra un bimbo ciccione e il suo frigorifero fornitore. Scopriremo, oltre che di cibi, di bellissime storie.